l'amor sta nell'aere, e l'amor sta nell'aere, di nero a me. Di nero a me. desaparecer. Nunca te fuiste. Desaparecer. Nunca te fuiste. Desaparecer. Desaparecer.

Thank you. Mami. Mommy.